GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Superbonus, nuova truffa scoperta dalla finanza tra Udine e Pordenone, 7 gli indagati, sequestrati 1.800.000 euro. Nuova udienza dal GIP per la morte di Matteo Pittana, il giovane finito nel torrente Ledra con l'auto, era con due amici che rischiano il rinvio a giudizio. Predisposto il piano per il brillamento della bomba della seconda guerra mondiale trovata nell'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano, prevista l'evacuazione delle case in un raggio di 680 metri. Oggi a Trieste la presentazione del progetto della nuova piscina acquamarina chiusa dal 2019 dopo il crollo del tetto, un investimento di 16 milioni, la riapertura prevista tra un paio d'anni. Inaugurato questa mattina a Trieste il nuovo centro di raccolta rifiuti nel quartiere di Giarrizzole, sarà destinato a rifiuti ingombranti e particolari. Scade tra 15 giorni il bando per il servizio civile. In regione ci sono 650 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. Ogni anno più domande dei posti disponibili, eppure alcuni progetti restano vacanti. Vento forte, neve sopra i 300 metri e brusco calo delle temperature. Da questa notte addio, almeno per un po', al meteo primaverile. In arrivo un marcato peggioramento. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Crediti d'imposta ottenuti grazie all'esecuzione di lavori edili mai realizzati e all'emissione di fatture false che attestavano l'avanzamento delle opere. Per questo la Guardia di Finanza di Udine ha denunciato 7 persone e compiuto un sequestro preventivo di 1.800.000 euro. Truffa del superbonus 110% e bonus facciate 90%, esecuzione di lavori edili mai realizzati ed emissione di fatture false attestanti il raggiungimento di stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%. La Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di oltre 1.800.000 euro per le ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti. Le società sotto inchiesta hanno sede a Udine e cantieri anche nella provincia di Pordenone. Gli autori della frode sono riusciti a creare crediti d'imposta fittizi, poi ceduti tramite società interposte ad operatori finanziari terzi, ottenendo così un profitto illecito pari a circa l'84% del valore nominale dei crediti ceduti, appunto 1.800.000 euro, il quale, per un importo pari ad oltre 520 mila euro, è rientrato in loro possesso mediante bonifici, sempre come giustificazione di pagamento di false fatturazioni verso società riconducibili agli stessi. 7 le persone di 4 società a responsabilità limitata denunciate per i reati di concorso in truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, autoriciclaggio ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono state programmate per domenica 29 marzo le operazioni di neutralizzazione del residuato bellico trovato nel sedime dell'aeroporto militare Pagliano e Gori di Aviano in febbraio e messo in sicurezza da parte delle forze dell'ordine. La pianificazione delle operazioni di bonifica dell'ordigno, una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale, è stata definita nel corso delle riunioni di coordinamento che si sono tenute in prefettura a Pordenone. Le procedure tecniche di bonifica faranno capo al terzo reggimento Genio Guastatori di Udine, che procederà al despolettamento e al successivo brillamento in una zona non urbanizzata di Roveredo in Piano. Il territorio del comune di Aviano sarà coinvolto solamente dalla sospensione della circolazione stradale, mentre nel comune di Roveredo in Piano è prevista l'evacuazione della popolazione presente nel raggio di 680 metri dal sito del ritrovamento. L'evacuazione inizierà alle 6:30 di domenica mattina. L'interdizione all'accesso ai luoghi e alla circolazione a persone e veicoli nell'area e nei tratti di strada interessati, presenti sia ad Aviano sia a Roveredo in Piano, scatterà a partire dalle 7:30. Chiusa dal luglio del 2019 a causa del crollo del tetto, la piscina terapeutica acquamarina di Trieste è tutt'oggi inaccessibile, in parallelo a un procedimento giudiziario in cui il comune, in qualità di parte civile, ha chiesto 11 milioni di euro di indennizzo al costruttore per ricevere in primo grado un parere negativo. L'amministrazione ha dapprima demolito la struttura e poi intrapreso intrapreso un percorso di ricostruzione di cui il progetto è già compiuto. Mentre siamo in onda, nel salotto azzurro del Palazzo Municipale, in corso la presentazione del progetto Nuova Acqua Marina. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche finanziarie, Everest Bertoli. Sentiamo. Non appena dissequestrata siamo partiti con l'iter opportuno, con un impegno economico molto importante attorno ai 16 milioni di euro, e oggi abbiamo il progetto definitivo esecutivo che metteremo a gara per la costruzione e la gestione della nuova acqua marina. Questi fondi sono interamente del comune oppure rientrano almeno in parte nel PNRR? Sono prevalentemente fondi comunali con un contributo regionale di 1 milione di euro e 2 milioni di un contributo statale. Il resto sono fondi comunali. Che cosa prevedono i lavori? I lavori prevedono la realizzazione della nuova marina, che sarà appunto una struttura all'avanguardia sia dal punto di vista dei materiali utilizzati, sia dal punto di vista dell'autonomia, autosufficienza. Ci sarà per esempio un impianto fotovoltaico di 132 kW di picco, ma anche sia soprattutto delle strutture interne per restituire alla città un'acqua marina ancora più funzionale e soprattutto ancora più all'altezza delle esigenze di una città che corre. Sono previste delle novità nelle strutture interne? Sicuramente saranno previste, sono le solite vasche in sostanza, sia per le fisioterapie sia per anche l'attività di nuoto libero. Sicuramente saranno vasche appunto dotate di mezzi ultramoderni, soprattutto che possono garantire l'accessibilità a tutte le persone, anche a chi ha bisogno di accedere per problemi fisici. Nel vostro cronoprogramma è già prevista la riapertura? Secondo programma partiranno 2 mesi di tempo di confronto per la validazione del progetto e confronto con la soprintendenza, e puntiamo di cominciare i lavori per la costruzione effettiva entro la fine dell'anno, massimo i primi mesi del 2027. In questo quadro la riapertura agli utenti quando dovrebbe essere? I lavori dovrebbero durare circa, poi questo verrà fuori anche dalla gara d'appalto, perché metteremo appunto a gara anche una riduzione delle tempistiche, insomma sicuramente ci vorranno un paio d'anni. La tragica morte di Matteo Pittana, il giovane di 20 anni morto con l'auto nel canale Ledra nel febbraio 2024 a Gevona del Friuli. Il giovane viaggiava con 2 amici che oggi potrebbero essere rinviati a giudizio. Siamo con Salvatore Spitaleri, che difende e rappresenta i genitori di Matteo Pittana, il giovane di 20 anni morto 2 anni fa a seguito di un incidente in cui era passeggero alla guida Ludovico Piva, che è stato già condannato, meglio, ha patteggiato a 2 anni e mezzo per omicidio stradale, e oggi si doveva decidere per il rinvio a giudizio di un ulteriore capo d'accusa per Piva e anche per Antonio De Prado, che era l'altro passeggero. Il capo d'accusa era occultamento di cadavere o eventualmente sottrazione di cadavere, oppure anche favoreggiamento nel caso di De Prado per aver mentito alle autorità, ai carabinieri, e per non aver chiamato i soccorsi. Ebbene, c'è stato il rinvio a giudizio per De Prado per favoreggiamento, ma invece non c'è stato il rinvio a giudizio, non luogo a procedere, per i reati di occultamento di cadavere che erano stati chiesti dalla procura. O come commenta questa decisione Spitaleri? Le decisioni le commenteremo quando leggeremo evidentemente le motivazioni odierne del GIP rispetto al non luogo a procedere. Quello che è rilevante oggi è che il procedimento per accertare la verità su quella notte prosegue nei confronti del De Prado rispetto all'imputazione di favoreggiamento. Quello che pare emergere in qualche modo dalle motivazioni che già il giudice ha anticipato è la circostanza che probabilmente, se non c'è stato un occultamento di cadavere, c'è stata una omissione di soccorso. Per questo noi chiederemo alla procura di riaprire il procedimento già archiviato sulla omissione di soccorso nei confronti del Piva, perché evidentemente se il Piva sapeva che Matteo purtroppo era morto, c'è l'occultamento di cadavere. Se invece il Piva risulta non dover rispondere per quel reato, rimane in piedi l'omissione di soccorso e soprattutto la volontà di chiarezza di quanto accaduto quella notte. Una vicenda dunque molto complessa dal punto di vista giudiziario e noi continueremo a seguirla. Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi, Pordenone 15, Udine 15 e mezzo, Gorizia 16 e mezzo, Forni di Sopra 11 e mezzo, Tolmezzo e Tarvisio 13, Sappada 8, Monte Zoncolan 4, Monte Lussari 4 e mezzo, Grado 13, Lignano 14 e mezzo. Per oggi pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità in montagna e vento moderato da sud sulla costa, dove il tempo rimarrà ancora bello come in pianura. In serata però è previsto un marcato peggioramento, ne abbiamo parlato con il previsore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Marcellino Salvador. Questa notte ci sarà un drastico cambiamento appunto per l'arrivo di un fronte freddo atlantico che arriva da nord-ovest, quindi valica le Alpi in tarda serata a cominciare dalla montagna e poi nel corso della notte anche per quanto riguarda poi pianura e costa. Il tutto sarà accompagnato da pioggia, da neve in montagna che arriverà a circa i 400-500 metri circa, ma nella seconda parte della notte nevicherà anche sul Carso fino ai 300 metri circa. Ci saranno venti forti, raffiche di vento forte, non solo in montagna ma anche in pianura lungo la costa, con appunto raffiche che potranno toccare localmente anche i 100 km all'ora. Dopodiché nel corso della mattinata di domani ci sarà un relativo miglioramento perché le precipitazioni finiranno, però il vento permarrà in particolare in montagna per tutto il giorno, anche forte, soprattutto in quota, mentre su pianura e costa il vento sarà più moderato rispetto alla notte e quindi da questo punto di vista la situazione sarà migliore rispetto a quella della notte. Temperature ovviamente in calo con massime di domani intorno ai 10 gradi circa per quanto riguarda pianura e costa, quindi andiamo giù almeno di 5 gradi ma molto più probabilmente in media di 10. In montagna sarà inverno e al mattino questa situazione invernale sarà praticamente anche su pianura e costa. Il freddo ci accompagnerà anche venerdì, poi nel weekend la situazione sarà in miglioramento. Le previsioni di chi dice neve addirittura sulla costa sono un po' esagerate. Sul Carso sì, nevicherà in alto sì, qualche fiocco potrebbe arrivare nella notte anche fino al livello del mare, ma non attecchire perché la temperatura comunque di Trieste sarà intorno ai 4-5 gradi, quindi anche se dovessero esserci dei fiocchi non attecchiranno per quanto riguarda la zona delle rive. E poi comunque alle 7-8 di mattina questa cosa finirà. Sarà aperto al pubblico dal 1 aprile e offrirà un servizio più accessibile per il conferimento di rifiuti ingombranti e particolari il nuovo centro di raccolta rifiuti triestino di Giarrizzole, inaugurato questa mattina. A Trieste ce ne sono già 4, ma la zona orientale della città, che conta 40.000 residenti, non aveva ancora il suo centro per la raccolta di rifiuti ingombranti e particolari. I fondi del PNRR, 1 milione, e l'investimento di Acegas, 800.000 euro, hanno consentito di colmare la lacuna in tempi record, poco più di un anno dalla posa della prima pietra, con il nuovo centro di raccolta di Giarrizzole. Entrerà in funzione il 1 aprile e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19. L'area è ampia, qui i cittadini che conferiranno i rifiuti nei container dall'alto non incroceranno i camion che svuoteranno e sostituiranno i cassoni. L'iniziativa vuole incentivare la raccolta differenziata nel capoluogo, dove non raggiunge il 50% contro una media del nord Italia che supera il 70%. Massimo Bugliatti, direttore servizi ambientali a Acegas APS AMGA. Trieste c'è la sindrome un po' di quello che è il sacco nero, quindi spesso a Trieste viene messo tutto in un sacco nero e buttato nell'indifferenziata. Eppure è dal 2014 che tutti i cassonetti di Trieste sono in batterie, dove sono presenti umido, carta, plastica, vetro e indifferenziata. Michele Babuder, assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste. La maleducazione e l'inciviltà di pochi pesa 500.000 euro sulle casse di chi invece cerca di conferire in maniera corretta. Questo centro è un'ulteriore possibilità per fare questo. Obiettivamente c'è anche un problema di controlli, nel senso che il divieto serve ma deve essere anche sanzionato e controllato. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato dalla polizia per aver favorito l'ingresso illegale in territorio nazionale di 4 cittadini turchi. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo a un'auto alla frontiera italo-slovena, nei pressi del valico di San Pietro. A bordo, oltre al cittadino rumeno, e 4 cittadini turchi sprovvisti di documenti validi per l'ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Gli stranieri hanno già manifestato volontà di richiedere protezione internazionale. Dallo scorso febbraio la polizia locale ha avviato, su richiesta del servizio scuola, educazione e biblioteche, un percorso formativo che coinvolgerà fino al prossimo giugno quasi 900 educatori del comune di Trieste. Gli operatori formatori della polizia locale offrono uno spaccato della materia di loro competenza con risvolti pratici calati nella realtà del servizio educativo, da una panoramica sull'attività della polizia giudiziaria alla casistica dei reati che più comunemente potrebbero manifestarsi in questo ambito, come riconoscerli, quali procedure seguire e quali sono le conseguenze di legge. Sono previsti 650 posti per giovani della regione dai 18 ai 28 anni per progetti di servizio civile universale nel bando che scade fra 15 giorni. Ogni anno si registrano più domande rispetto ai posti disponibili, eppure alcuni progetti restano vacanti. Il consiglio è quindi di informarsi online e nei 5 info point dedicati al servizio civile in Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le iscrizioni al servizio civile universale, c'è tempo fino all'8 aprile per partecipare. In Friuli Venezia Giulia sono disponibili quasi 650 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. La candidatura si presenta online, i progetti durano dagli 8 ai 12 mesi e valgono ai fini pensionistici, danno anche punteggi nei concorsi pubblici e prevedono un assegno mensile di 520 euro. Per molti è anche un'esperienza che può cambiare la vita. Eleonora Tomat, oggi libera professionista a Gemona. Ho fatto il servizio civile a Gemona del Friuli, in comune, e lì ho incontrato una ragazza che ora è una mia grandissima amica e collega, perché dopo questa esperienza di servizio civile abbiamo continuato a lavorare insieme, abbiamo aperto partita IVA e adesso collaboriamo al progetto Info Servizio Civile. E gli sportelli in regione sono 5, oltre a Gemona c'è Trieste, Monfalcone, Udine e Pordenone. Le domande spesso superano i posti, ma alcuni progetti restano scoperti. Per questo è utile scegliere con attenzione e farsi guidare. E c'è anche la possibilità di partire all'estero. Sono Sofia Furlan, ho 29 anni. Al momento mi trovo a Huamachuco, una città del nord del Perù. Sono Rebecca Zanoni, ho 27 anni e sto prestando servizio civile a Luanda, in Angola. I settori sono numerosi, dalla protezione civile alla tutela del patrimonio, dalla promozione della pace alla cooperazione internazionale e tanto sociale. Margherita Duranti. Io sono entrata in ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, grazie a darci servizio civile Friuli Venezia Giulia, dove ho la possibilità di promuovere le attività dell'associazione, come appunto l'accoglienza gratuita nelle case per aiutare appunto le famiglie dei bambini ricoverati al Burlo. L'impegno è di circa 25 ore settimanali e può essere compatibile con l'università, come sta facendo Esther Londero, studentessa di matematica all'Università di Trieste. Secondo me ne vale la pena, non è tempo buttato. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Leggere il mondo nelle settimane incandescenti che lo stanno cambiando è l'obiettivo della 12ª edizione di Link Media Festival, l'appuntamento con il giornalismo di qualità che dal 10 al 12 aprile riapre le porte della Link Arena allestita nel cuore di Trieste in Piazza Unità. Promosso e organizzato da NEM Nord-Est Multimedia in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e curato da Francesca Fresa, Link Media Festival accoglierà oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo d'inchiesta, della scienza, dell'economia, della TV e della geopolitica. 3 giorni per affrontare un'ampia analisi delle sfide globali del nostro tempo. Tra i protagonisti in arrivo la giornalista Marianna Aprile, alla quale va la 15ª edizione del premio Crédit Agricole. Livenza, acque leggendarie, una visione fotografico-naturalistica dell'Alto Livenza dalle sorgenti al sito preistorico del Palù al Regno degli Anfibi. L'autrice dell'opera, Diana Crestan, fotografa naturalista, ha lavorato 4 anni sul campo per catturare le immagini. Sentiamola. Con le mie immagini voglio raccontare la parte più alta dell'Livenza, anzi chiamiamola il femminile anche perché così viene chiamata dalla comunità locale, attorno alle sorgenti, perché è la parte che è rimasta ancora più naturale, insomma quella più bella. E il mio intento è anche quello di dimostrare che è un luogo comunque semplice, non è una bellezza come si può trovare nelle Dolomiti, quella è proprio l'effetto wow, ma comunque piccole perle di bellezza e ha comunque il suo fascino. Oltretutto gli ecosistemi umidi sono ecosistemi importantissimi per l'ambiente e sono gli ecosistemi più a minaccia di scomparsa, e quindi è un doppio intento far vedere il fascino di queste sorgenti, di questo fiume leggendario ricche di storia e di leggenda, ma anche diciamo le sue fragilità. Non vorrei che le mie fotografie diventassero testimonianza di qualcosa che poi tende a scomparire, spero proprio di no, insomma, ma è un invito alle persone a guardare con occhi nuovi un ambiente semplice ma importantissimo. Presentazione sabato 28 marzo alle 18 al centro di catalogazione dei Magredi di San Quirino, Livenza, acque leggendarie. Editore Daniele Marson seguirà l'inaugurazione della mostra. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Una segnalazione di servizio: ANAS informa che per consentire attività di ispezione infrastrutturale sarà chiusa al traffico la tratta dell'autostrada A4 compresa tra Sistiana e Rabuiese tra il chilometro 21 e il chilometro 24 in direzione Trieste, nel comune di Trieste. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 di oggi alle 6 di mattina di domani e riguarderà tutte le corsie con interdizione al traffico all'interno della Galleria Carso e della Galleria Cattinara. Il transito sarà consentito ai soli mezzi di soccorso. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Roberto Cavallari, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.